Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Ed eccoci qua. Buonasera, benvenuti alle buonanotte di allineamenti, qui è Gas che vi parla. E chiudiamo l'ultima settimana di allineamenti qui in radio, per poi rivederci da domenica. Vi lasciamo quindi all'inizio del weekend, perché da domani non si scherza più e si va fuori a ballare o a divertirsi, o comunque a sentirsi un pochino meno stressati dal lavoro, dai compiti, dallo studio, da qualunque cosa dovete fare. Anzi, il giovedì è fantastico perché generalmente si pianifica quello che faremo nel weekend. Io sinceramente invece sono fottuto perché da domani inizio la seconda settimana del master, quindi venerdì e sabato sarò impalato dalle 10 del mattino alle 10 di sera a Calabiana, al TAG, Talent Garden Innovation School di Milano, dove sto facendo un master sulla digital transformation all'interno delle aziende. Tante parolone, non avete capito niente. Vabbè, tante di robe strane che vi ho detto, ma non avete capito quante ne ho viste per concludere il viaggio di questa settimana parlando del Giappone, in Giappone. Ne ho viste tante, ma non ho visto il Monte Fuji, come vi dicevo, che sono andato a cercare ad Hakone, come vi ho raccontato martedì, ma non ce l'ho fatta. Eppure c'è una haiku di Issa, come abbiamo concluso la serata di ieri, che racconta: oh, lumaca, scala il Monte Fuji, ma piano piano. E io neanche piano piano sono andato a scalarlo, perché era veramente troppo lontano per dove eravamo e non si riusciva a vedere. È stato un gran peccato, però da Hakone siamo riusciti a vedere lo stesso, con grande fortuna, i ciliegi in fiore, che era una delle cose per cui andavamo in Giappone nel periodo di aprile, cosa che a Tokyo non è stata possibile, nonostante i tantissimi parchi che abbiamo visto, il verde che abbiamo visto, dal parco di Ueno a Yoyogi Ken, al parco imperiale dell'imperatore. Poi me ne sto dimenticando altri, ma non ho una buona memoria. Detto questo, cosa facciamo questa sera? Cosa vi racconto questa sera? Vi racconto ancora qualche haiku e poi vi faccio sentire una delle cose più strane del Giappone, perché volevo lasciarvi con alcune metto le tre cose più strane che ho visto, e ho già detto che non ci sono pattumiere a Tokyo nonostante sia pulitissima. Vi dico la prima e poi dopo la canzone. La seconda è... allora sto facendo un po' di confusione. Vi dico la prima. Al terzo posto c'è che il popolo giapponese è molto molto strano, ma se sei un fumatore sembra ancora più assurdo, perché in Giappone non è possibile fumare all'aperto. Io non posso fumare in giro camminando, neanche quando sono al parco. Non si può fumare all'aperto. Esistono delle apposite zone dedicate ai tabagisti che trovi nell'arco di ogni 1,5 km, 2 km, dove puoi metterti lì insieme ad altri giapponesi a fumare. E ancora, vabbè, dite, ci può stare, almeno ci facciamo fumare o meno. Però la cosa strana è che nei locali, nei ristoranti, nelle sale a giochi puoi fumare dentro, quindi puoi fumare sia dentro nei locali chiusi, sia in queste zone delicate. Vabbè, però hanno degli impianti di aerazione talmente fighi che è come se non, anche se fumi dentro non te ne accorgi. Un'altra cosa veramente strana è che le loro taglie sono piccolissime. Quindi io, che sono piccolino, e qui in Italia prendo la M, la S come maglietta, in Giappone mi sono dovuto prendere la XL perché loro sono bassettini e piccolini, o forse anche perché io sono veramente ingrassato. Al numero 2 delle pazzie giapponesi dopo le zone tabagisti è il famosissimo gabinetto, che voi lo conoscete sicuramente perché è una roba che si racconta da anni e anni e anni. Infatti c'erano da una ventina d'anni, se non di più. Il gabinetto giapponese è veramente una figata. Io vi dico solo che anche nei posti pubblici, nei bagni, sono super puliti e sono con la tavoletta riscaldata, e a lato della tazza ci sono dei tasti che sono incredibili, perché puoi partire dalla musichetta per coprire il fatto che magari devi fare qualche rumore strano mentre fai la cacchina. E poi c'è naturalmente il lavaggio, che può avere mille funzioni: spray, getto d'acqua, Puoi scegliere i jingle musicali, come vi dicevo. È veramente una figata. Poi ti asciuga anche, poi l'aria caldina che ti... Vabbè, sto esagerando. Al primo posto, le cose più strane però, ci sono le idol. Non so se le conoscete, ma sono queste ragazze che fanno impazzire clamorosamente non i loro coetanei, ma persone molto più grandi di loro, uomini sulla quarantina, cinquantina d'anni, che sparano letteralmente fuori per queste ragazze e iniziano a ballare sotto palco a 200, proprio al ritmo, con questi bastoni fluorescenti che tra l'altro hanno anche gli sbirri in giro per la città. Robe veramente assurde. Le idol, noi abbiamo avuto l'onore incredibile di incontrarle durante i nostri 5 giorni a Tokyo, perché siamo usciti dalla nostra metropolitana di Toibi, adesso non mi ricordo più, Amamachu o qualcosa, Toiba, lì sul mare, perché c'era il festival per la Golden Week dell'Imperatore, e queste facevano uno spettacolo a Shibuya e il pomeriggio lo sponsorizzavano la nostra fermata della metro. Le Iris si chiamavano. Sono andato a cercarmene e adesso ve le faccio ascoltare, una bella penitenza, ma voi dovete capire quanto sono amate queste ragazze in Giappone, una roba allucinante. Vi lascio ad Iris con la canzone Make It e poi ne parliamo, se non è la cosa più strana del Giappone. A tra poco. Eccoci qua, ben ritornate alle buonanotte di allineamenti. E ritorniamo a parlare di Giappone, delle cose malate che combinano questi giapponesini. Una cosa incredibile, veramente, che capita spesso, è che ci sono delle cose strane. Tipo in Giappone non ti puoi soffiare il naso in pubblico, vieni visto malissimo. Oppure non puoi baciarti, non puoi fare effusioni amorose, veramente. O non puoi avere tatuaggi negli onsen, veramente. Anche lì, appena mi entravo in acqua con questi tatuaggi, cercavo di coprirli pochini, ma uscivano tutti un po' guardandomi male. Non mangiano in strada, ma mangiano in metro. Sono veramente particolari. La cosa più assurda è che quando mangiano il brodo caldo con tipo il ramen, fanno un casino pazzesco. Ma è giusto così. E quando escono dal ristorante c'è proprio il casino generale, perché tutti gli chef, i cuochi escono a salutarti e a urlarti. E poi naturalmente un'altra cosa che faceva molto piacere alla Mary è che i giapponesi sputano dappertutto, per terra, dentro, fuori, senza nessun problema. Sono anche abbastanza, e ogni tanto sono anche abbastanza sudati. Ma ora che ho dato queste bruttissime immagini, chiudiamo con le meravigliosi onsen di Issa. E io vi auguro un buonissimo, buonissimo weekend. Più numerose le primavere, più i lunghi giorni recano lacrime e lamenti. Quiete invernale, nessuna capacità, perciò nessun peccato. Le allodole cantano, il contadino fa della sua zappa il suo cuscino. In questo mondo gli uccelli cantano il sutra del loto. Dove c'è l'uomo ci sono le mosche e c'è anche il Buddha. Sera d'autunno, ginocchia tra le braccia, come un santo. E vi saluto con questa, perché la farfalla vola senza alcun desiderio in questo mondo. E voi dovete essere un po' come delle farfalle, perché alla fine non è che... questo il mio consiglio di questa settimana. Andate in pace come i giapponesi. Buonanotte a tutti. E questa era Ciao Radio Como e le buonanotte di Allineamenti. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di Allineamenti.